Borse in disfatta. Ciao bel bambino, quanti anni hai? Drago, chiama la polizia. Quanti anni hai? Drago, levati. No, ma perché non mi risponde? Quanti anni hai? Ma non ti risponde perché è morto. Chiedo asilo. Oh, sigla nuova, eh? Aria nuova, vabbè. Sigla nuova, suoniamo meno, parliamo più di concetti. Queste sono le direttive per la nuova stagione di Chiedo Asilo, che comincia oggi, anche se potrebbe sembrare una replica. In realtà non è una replica. Però è una replica. Lasciamo anche il dubbio. Sei una replica? Ma non lo so, io potrei essere una replica, potrei essere anche vero. Comunque attuale, io non ce la presente. Faccio. Te lo dico già, non ce la faccio. Fare così perché poi non ce la faccio nemmeno io, no, mi viene lo sconforto. No, perché l'estate non è finita, cioè l'estate finisce il 21 settembre, oggi è il 5, quindi appunto, cos'è sta storia? Però, è finita scusa. L'estate? No, ma non è che è finita l'estate, il 5 settembre ricomincia semplicemente la nuova serie di Chiedo Asilo. Vabbè, però... Lo sapevi anche, ne abbiamo parlato a fine luglio prima di cominciare le vacanze, quindi... Sì, non dire quella parola, per favore, non fai altro che girare la lama nella ferita della mia anima. Sì, Drago, le vacanze... Quale ferita, non... soprattutto quale anima, perché vabbè, questo... su questo dei dubbi, dai, inutile piagnucolare. Sii adulto, sii responsabile, sii... Se è vero. Vabbè, se l'estate non è per niente finita dal punto di vista astronomico, non so se si dice così, se è il punto di vista astronomico, vabbè. Però l'estate in senso sociale, e cioè il periodo in cui a turno tutti più o meno vanno in vacanza, e beh, quella è finita, I 15 controesodi si sono verificati tutti. L'ultimo direi ieri, proprio i bollini per rossi largo, proprio, esatto, sì. Neri anche, quindi possiamo ufficialmente dichiarare che inizia quella stagione di mezzo che sta tra l'estate e l'autunno, una specie di estunno o di autate. Tito, ciao Tito. Guarda che Tito, bentornato Tito, anche tu a Chiedo Asilo. Bentornito anche, ho mangiato un sacco quest'estate. Dai, ma buono, dai, ma che no, c'è? Tu fai giochi di parole. Beh, dai, ma lo vedo ti bello. Intorcini in un discorso senza senso che chiude con estunno e autate. Attenzione. Credo che ti interviene. Vabbè, allora dai, ricominciamo. L'estate che ci stiamo lasciando alle spalle ha portato con sé alcuni episodi degni di nota qui a Chiedo Asilo e direi che i primi due illustri personaggi a entrare trionfanti nella classifica provvisoria delle figure da pirla dell'estate 2011 sono Gérard Depardieu e José Mourinho. Bravi. Allora... Cominciamo dal grandissimo Gérard Depardieu. Veramente grandissimo. Grande, grosso, pure però non adulto, perché chi è che non riesce a trattenere la pipì e se la fa addosso di solito? I bambini. Il buon Depardieu appunto si è dimostrato un bambinone cresciutone facendo la pipì davanti a tutti sul pavimento dell'aereo CityJet pronto a decollare da Parigi con destinazione Dublino. Tutti lì per andare in Irlanda. Evidentemente non ha potuto farne a meno. Non è capito, che uno se può scegliere si mette a fare la pipì sul pavimento dell'aereo. Non poteva farne a meno e l'ha fatta lì. Ma tutti sanno che in aereo ci sono due momenti in cui non ci si può muovere dal proprio posto e sono il decollo e l'atterraggio. Allora lo sanno tutti sempre rispettano queste regole, dal vecchietto che è la prima volta che vola al presidente degli Stati Uniti. Depardieu no, lui doveva farla proprio mentre l'aereo era in fase di decollo. Avant de parler, je dois pisser moi. Gérard Depardieu, personne ne peut m'empêcher de pisser. Je dois pisser. Traduzione, parce que j'ai bu, devo alors fare la pipì, ho bevuto, nessuno mi può vietare di fare la pipì. Giustamente, aggiungo io. Sì, però scusa, ma l'aereo era già partito quando lui ha fatto la pipì per terra, quindi è dovuto rientrare a Parigi per consentire le pulizie del caso, mica potevano andare fino a Dublino con la pipì. Scusa, Gli amici di Depardieu dicono che lui l'ha fatta in una bottiglietta, Vabbè, però. Che qualche goccia è finita sul pavimento, tutto lì, è una questione di mira, non è una questione di educazione. Gli altri passeggeri invece hanno detto che era ubriaco e l'ha proprio fatta tutta sul pavimento, altro che bottiglietta. Ubriaco, cioè era ubriaco, però l'ha fatta in una bottiglietta, se sei ubriaco a prenderla e poi se l'è bevuta, capito? Cosa? La pipì. Ma che schifo, capo. Ma è ubriaco, Drago. Ha visto una bottiglietta piena, un po' giallina. Pensato fosse, non so, un liquore strega. Però come? Forse, sai che la pipì di Depardieu è proprio gialla. Non è più un Braulio. Invece José Mourinho non accetta. No, ma il calcio, abbiamo appena cominciato, parli di calcio. Beh, però guarda, Mourinho questa volta ha fatto una cosa fantastica. Cosa perché lui sai che non ama perdere. Adesso ha perso la Supercoppa spagnola contro il Barcellona. E finita la partita, non ha resistito, ha approfittato di un po' di baruffa tra le due panchine, si è fatto beccare dai fotografi e dalle telecamere, mentre infila un dito in un occhio al vice allenatore del Barcellona, Tito Villanova. Cosa c'è? Mica tuo parente. Tito Villanova. Gliel'ha ficcato nell'occhio, dai. Sì, e beh, dove a ficcaglio, no, dai, ma so. Comunque le immagini hanno fatto il giro del mondo e Mourinho ha di nuovo occupato le cronache per giorni e giorni, non per le sue qualità di allenatore, ma per suo infantilismo. Anche qua ci sono dei dubbi, Drago, perché come nel caso di Depardieu, sì, sembra stampa, che Villanova o Villanova avesse già tirato uno schiaffone a Mourinho, quindi allora siamo proprio a livello di ha cominciato lui, vabbè, è maestra, è cosa importante. Ma come sapere chi ha cominciato? Importantissimo. Ma no, ma cose del genere comunque fra cinquantenni non devono succedere, al di là di chi comincia, di chi non comincia, dai. Ma dai, Drago, ma è un dito nell'occhio, sempre, non sarà mai un dito nell'occhio, è sempre meglio che un dito nella piaga. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? E ora, bambini, ricreazione! Michele! Ma chi è Michele? Ma cos'è? Michele! Ma cos'è? Bambino Alberto, è settembre! Sono qui all'Asilara! È settembre! Ma come? All'Asilara sei! Sono in mezzo... agli operai sciopero. Ma vabbè, ma cos'hai visto? Delle repliche di anno zero, anni zero. Corrado Formiglia. Cosa, perché devi? Cos'è? Un giornalista che, sta cominciando anche un nuovo programma. Certo, sulla 7. Sì, sì. Fa che pontifica. Ma no, no, ma che vabbè. Senti, adesso qui non è più una replica, capito? Cioè non è siamo in tempo reale adesso, siamo in onda. Forse. Cioè, l'asilo, tutto come al solito. L'asilo è riaperto. Ma no, non è vero come al solito. Cioè, come parliamo? Quest'anno questa stagione è diversa, qui si cambia. A parte il fatto che tu ti hai bocciato perché sei ancora qua. Cosa ho bocciato? Ogni asilo ha il suo percorso di formazione, no? Sì. E io il mio non lo conosco. Non lo conosco. Quindi... aspetta che mi dicano, vuol dire che va tutto bene, no? Se non vai bene ti mandano via. E quindi stamattina ti hanno portato all'asilo, come al solito. Beh, certo, fiero anche. Ma non è che pensavi magari cominciano le scuole. Vabbè, però, infatti, è questo. Cioè, qual è lo spirito del bambino Alberto verso l'inizio, no? Il nuovo inizio. Allora, come... com'è che... Beh, allora... insomma, mi angoscia un po'. Per te piangere, però, dai, Alberto. Perché? Ma no, ma è un nuovo inizio. È settembre. Infatti, a settembre, dai. Tra l'altro, nascono nuovi amori, nuovi interessi. Cosa c'entra nuovi amori? Allora, dai, qui è un bambino. Poi l'unica stare. Cosa è aver assicurato il posto. Cioè, io sono stato promosso. Cioè, praticamente mi hanno confermato all'asilo. Sì, se voi mi insegnate. Confermato. Che se non vai bene, ti dicono: senta, guardi, lei è una brava persona, però non abbiamo più bisogno di lei. A me questo non è stato detto. Ma no, ma l'asilo non è stato detto. Così. Allora, bambino Alberto, l'anno prossimo, stai ancora qui. Beh, allora ok. Ha fatto un contratto, insomma. Come? Sì, in Fiat. Solo in tre? Sì, ma solo in tre ci hanno confermato. Il bambino Alberto rappresenta il problema dell'Italia, cioè che siamo fermi. Tu dovresti crescere, non dovresti si cresce. Passare dall'asilo alla scuola elementare. Invece 0,1% di PIL. Sempre lì all'asilo, fermi, inchiodati. Ma non dipende mica da me. Non lo so, è sempre colpa degli altri. O degli altri o di Gildo, no? C'è sempre l'opzione Gildo, no? Ma perché Gildo uno non dimentica. Esiste, ma basta con questo amico immaginario. Ma anche tu, ma cresci, cioè l'amico immaginario è una cosa basta. Dei bambini piccoli. Gildo, dai. Gildo, è colpa tua. È colpa tua cosa? È colpa tua, no? No, cioè, è colpa mia. E comunque è colpa di Gildo. E chiedo asilo finisce oggi, ma torna domani. Ma c'è una novità quest'anno, c'è una novità. C'è la nostra lavagna sonora. La lavagna sonora di Chiedo Asilo, alla quale potete accedere telefonando allo 02 46 52 4495. Lo ridico, 02 46 52 4495. Potete mandare le vostre bambinate, lo spazio è tutto per voi. Non mancate. 02 46 52 4495. Potete mandare i vostri tweet, oppure delle cose tipo: mi piace, quest'estate sono stata al mare, nelle Marche, ecco, queste ho cose conosciuto no. un tedesco con gli occhi azzurri, la spiaggia, il salmastro. Queste cose no. Il salmastro.